lì, non rispondi, non fare finta di niente. Cioè, ma se la fai lì? Ti ho riconosciuto dalla TV di fondo. A salire, ma niente, cosa... Te l'ho riconosciuto proprio. Oh, Gio Maria, beh. Ma, beh... Cazzo, guarda, la TV, tu ci a vedere un po' chi c'è. E ci si è presentato tu comunque, fa piacere da ogni tanto. Tutto bene, sì? Sì, oggi, nonostante la bella giornata, però non siamo usciti. Oggi è un po' giornata così di riposo, domani già ci facciamo un bel giro. Se rimane così, facciamo un bel giro. Cappa. Peccato mi, perché non era male come giornata. E vabbè, sai cos'è, non è che puoi uscire tutti i giorni. Ieri siamo stati tutto il giorno fuori. Oggi riposo, domani si vedrà. E domani penso che facciamo un'altra bella giornata, visto che puoi uscire anche benissimo. E per cui sta facendo caldo, sembra così, ma mi sono vicino alla finestra. Ho visto che c'è molto caldo, ma vabbè, a parte dentro. Fuori non lo so, perché sono uscito solo stamattina, stasera non sono uscito per niente. Io sto utilizzando un baracchino che era fermo da un po' e ogni tanto mi tocca farli girare. Sì, ogni tanto mi tocca farli girare. Vedo che stanno andando tutto bene, a parte che ho visto qua, mi toccando lo spinotto del microfono, senti un po'. Ma qua ci vuole CRC. Infatti a scarica. Infatti ci vuole. Sono i contatti del PCC che fa quell'effetto. Dai una bella strussata e vedrai se mette a posto. Vediamo se tiene. Mi sa che sì, perché poi si accumula una micropolverina, nonostante sia nel cassetto, bello chiuso. Devi vedere quella, la polverina che ho trovato, quella fine in fine, sempre così mi fa. Io penso che sia come si chiama, anche dentro un cassetto chiuso, magari tra l'aria e il caldo fa una specie di non so, di muffa, no, una specie di muffa, forse per quello. Ci manca solo il baracchino a muffito, mi. Aspetta, vediamo un po'. Si abbasso i watt. Non vedo niente qua. Volevo vedere se aveva picchi di modulazione. Vai, se la pulisce magari si mette a posto tutto. Ogni tanto c'è. Beh, da molto che non lo usavi. Qualche mese. Aspetta che adesso. Naturalmente l'apparecchio lo spengo, non lo faccio all'apparecchio acceso un attimino. Lo spengo, proprio lo spengo, lo stacco dall'alimentazione, gli scarico i condensatori e gli do una spruzzata un attimino, se ci sei ancora poi. Vai. Prova. Va bene. Prova, 1, 2, 3, sembra risolto. Sì, adesso è perfetto. Non scaccherà più ormai. C'è tanto per cui ci voleva spostare, dai. Il CRC pulisce tutto, per cui adesso va bene. Anzi ti dirò, aspetta che abbassa il ricevitore. Ecco. Metto un canale monitor, ecco. No, ti dicevo, vabbè, nonostante quella polverina, però lo spinotto del microfono era infilato e anche abitato, lì polvere non è entrata, però ogni tanto si forma un po' di ossido. E guarda, io adesso lo tocco, guarda, sto rotando perché balla un po', nonostante la ghiera avvitata, è come se fosse un po' lasco, un po' largo, come dire, però vedi, scarica nulla. Va bene, e questo non è il mic originale. Dopo trovo l'altro, lo pulisco e riprovo anche quello. E non è entrato nessuno, no? No, mi stavo spazzolando io. Stavo spazzolando e non ho sentito nessuno, solo che questo è ciucu ciucu, proprio il momento che sono passato sul 10. Nessuno, è tutto deserto. E beh, stasera, sabato sera, tutti stanno preparando per andare a mangiarsi la pizza, e per cui è un po' difficile che entri qualcuno, però già aperta la perdita la porta. Se la pizza non fai niente, ecco qua, adesso dovrebbero essere 4 watt circa. 4 watt circa, vedi, watt di abbasso. Ecco, adesso potrebbero essere 2 o 3, non lo so. Va bene, sembra che funzioni tutto bene. Vedi, questi vabbè, sono tenuti bene. Però sai, quando ne hai molti devi fare sempre girare a turno e non ti ricordi nemmeno. Quando hai finito di far girare l'ultimo hai già dimenticato il primo. Quale c'hai, capito? Infatti, è così. Se non vai 30 è qua, bella, pulita. Ricogliono, ce ne sono più, bella, tranquilla. E ogni tanto bisogna anche provarla, ma io non è che li tocca più, cazzo, voi non ce ne più voglia, per cui attacco questo solo e basta, boh, questo è già sempre attaccato e ogni tanto la sera così 10 minuti, una chiacchieratina quando si può, non ce ne più voglia, ma. Gianmaria, sì, è vero, è un discorso che abbiamo fatto anche qua sul 10, insomma, chi non ha voglia, chi ha perso la passione, chi sta poco bene, insomma, tutti abbiamo i nostri piccoli grandi problemi e quindi non c'è voglia di stare tutti i giorni come una volta. Anche al 23 mi pare di aver sentito molto meno movimento, quando spazzolo, rispetto a una volta, dai. Ma una curiosità, ma Graziano non entra più, ma come sta? Ma già è, capisci? Ah, l'ho sentito la settimana scorsa, insomma, non è che abbia migliorato, ma è così, un po' bene, un po' male, un po' bene, un po' male. Ecco, non mi ha telefonato, il fatto che si stava mettendo la dentiera nuova, quella fissa, e penso che se l'abbia messa, per cui ti abbiamo mandato l'accordo e forse se li ha messe, e per cui così non è che sia tanto male, vai, sai com'è, e anche lui non ha voglia, ogni tanto c'ha le sue cose, per cui non ha più voglia anche lui, vai. Stavo vedendo che c'era l'autoascolto inserito qua, sentivo un po' lì la mia voce, adesso la sento di più, vediamo un po', sì, vediamo cosa succede, così se l'eco funziona sempre. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Prova. Leggero, magari. Per quanto era per vedere se funzionava, no? Hola. Adesso metà. Così lungo. Prova. Già funziona tutto, dai. Adesso l'ho letto. Sì, già sta funzionando. Sia minimo che a marcia. Già sta andando bene. Anche questo c'ha l'eco, ma raramente lo metto, questo è 7009, mi sembra che ce l'hai anche tu. Sì, Giomari, anch'io ce l'ho il 7009, la prima versione, perché poi hanno fatto la versione V di Verona, che sarebbe quella con più watt, ecco. Questo è l'Intec HR5005, che sarebbe poi chiamato anche CRT 6009, con la 6, col 6, 6900. E bene o male la scheda è quella, cambiano un po' di funzioni, questo diciamo c'ha più manopole frontali, è tipo vecchio stile, dai. C'hai menu, però c'hai anche molte manopole frontali. 7009 bello, 9009 bello, però è un po' piccolo, c'ha pochi comandi sul davanti, capito, il 9009. Però vanno tutti bene, funzionano tutti bene. E poi comunque io avevo preso anche dei President. Ti ricordi quando tu modulavi col Berry? President Berry, quello lì. Siccome uscivano anche limpidi di botulazione. Io poi ne avevo preso uno e era andato bene, poi un altro ancora, e vanno tutti bene anche quelli là. Naturalmente la modulazione è normale, col microfono normale, niente fronzoli, niente eco, niente, non c'è trucco, non c'è inganno, dai. Ce l'ho ancora io, Presidente, e metto la scatola. E infatti, l'ho avuto anch'io il 5005, e l'avevo altra cosa a Tino, perché non mi piaceva il colore del display, e mi piaceva il 6009. Ho preso il 6009, stava sempre funzionando bene, ma l'ho usato poco e niente, l'ho messo dentro la scatola, poi dopo un annetto l'ho aperto, lo sono andato a staccare, e la partita è fusibile. E rimetto il fusibile, si è acceso la display del frequenzimetro, però non c'è la ricezione, nulla. Allora toccando ho fatto la, come si chiama, i due tasti, l'ho spento, le ha rilasciato e si è rimesso in funzione, però ha cominciato a fare un rumore strano il QRM, che infatti l'ho dato a una persona qua, se riesce a metterla a posto, ma non trova il pezzo, per cui adesso vediamo un po'. Sono tutti belli, ma questo qua mi ha fatto quello difetto, il 2009, chissà con cosa è successo, deve essere la ricezione. E la rauca, a momenti si abbassava anche il volume. Capita, ecco, io il contrario, a me piace più il 5005 perché la tonalità del display è calda, è quella specie di arancio, no? Come dire, tra il rosso e l'arancio, molto bello di notte, suggestivo. L'altro è troppo gelido, per quanto sia bello lo stesso, poi più fredda come luce. Eia. Una volta gli davo anche un'occhiata col computer, gli avevo personalizzato i canali, io ho infatti 60 canali per banda, non 40, 60 canali per banda, e me li avevo messi in una disposizione particolare, molto molto comodo. Mi hanno messo anche i canali inglesi, sai che c'hanno, in FM avevano i canali, una canalizzazione particolare. Ma infatti di solito vogliono, ho fatto con il computer, questi quando arrivo lo devo mettere ad attaccare il computer e metto sulla posto tuo. Io questo non l'ho fatto, questo me l'aveva, come è arrivato l'ho attaccato e mi sono messo la frequenza io stesso e basta. Pensavo che fosse quello lì, perché non è stato fatto come si deve, capito? E invece no, qualche cosa è successo, qualche cosa, siamo là, funziona bene, una bella parica, è preciso al 5005, la stessa caratteristica, è preciso sia dentro che fuori, cambia solo il colore del display, del frequenzimetro, non è così? Sì, esatto. Poi hanno fatto delle versioni intermedie, hanno fatto il CRT 7009, no scusa, il 6009 l'hanno fatto intermedio con una funzione in più, e poi hanno fatto la versione attuale che ha due funzioni in più, una è il DNR, non so come si chiama, il DSP per eliminare rumori di fondo, l'altra funzione non me la ricordo. Così dà l'evoluzione un po' degli apparati. Io ho le prime versioni, poi quando penso che l'Intec non esiste più nemmeno, anche qua se si rompesse a chi vi chiede di cambi? E vabbè. Io lo stavo cercando il 5005, ma non le stanno facendo più, non ce l'è più in commercio. Ce n'è un altro tipo che mi sembra che sia in America, in 550, una cosa del genere, due o tre tipi ce ne sono precisi al 5005. Ma sono precisi, però non so se li hai visti. Allora, se sono precisi, guarda, ci sono tante, ma allora in origine era il, si chiamava il modello 5555 ed era cinese, della marca, non mi viene la marca. E poi da quel modello lì ogni rivenditore di baracchini l'ha ordinato, l'ha fatto col proprio nome. Esistono, mi pare, almeno 12 nomi. È stato venduto questo apparato in tutto il mondo, tipo MAS 5000DX, KPO 5000, Aquarius non so come, addirittura esiste anche marcato Kenwood. E indovina dove che l'hanno marcato Kenwood? In Russia. Addirittura. Io ho visto parecchi tipi, ogni tanto sto sempre cercando, guardando lì a vedere un po' cosa hanno fatto di nuovo. Grazie, è andato a finire in Russia e anche lì si stanno andando a fare con le frequenze. Eia. Anzi, ti dirò, se avessi avuto il cellulare, lo smartphone, è che è da stamattina, dall'ora di pranzo, che lo smartphone l'ho buttato da qualche parte e non so manco dove sia. E ogni tanto bisogna staccare, perché quello è veleno, è veleno. È come una droga, sei sempre attaccato, o cerchi qualche nome, o cerchi qualche prodotto, o ti mandano messaggi, o arriva la pubblicità. Invece è bello, sono stato, ho riposato un bel po' stasera, senza smartphone, senza rottura di scatole. Adesso mi tocca cercarlo però. Un attimino, che ti dico qua con quanti nomi esiste. Allora, era in bagno e l'avevo lasciato sopra la lavatrice in bagno. Ok. Adesso vado su CBNL e trovo i modelli corrispondenti. C'ho anche, come si chiama, il presente Lincoln, due versione 3, anche quello c'è nel tuo scatto, nuovo, usato poche, c'era due o tre ore di che l'ho usato, anche quello c'ho, ma chi lo tocca adesso? Eia. Allora, tu hai quello lì, io avevo preso quello compatto che ha l'altoparlante frontale, si chiama, è che non mi vengono i nomi. Ma ce l'ho qua, ma guarda, è una cosa allucinante, non mi vengono i nomi. Sono tutti belli, adesso magari non senti voglia di prendere niente, ma a me ne vedevo uno, mi piaceva e lo prendevo, dopo un po' ne vedevo un altro e lo prendevo. È sempre così, per cui adesso basta, che non ho preso più niente, ma questi qua, l'ultimo ho preso era il 6009, che mi ha fatto quel difetto, e chissà che trovino il pezzo ad aggiustarlo, boh, è un peccato, perché mi piaceva molto, ho venduto il 5005 perché quel colore del cielo non mi piaceva il colore azzurro, ho capito, e mi piace molto. Allora, ho aperto il sito, questo apparato è venduto nel mondo con 18 nomi diversi, ricordavo meno, no, 18 nomi diversi, in base al paese. Per esempio in Brasile lo chiamano tipo Aquario, se non sbaglio io, Aquario X80, poi c'è, che ne so, Dynascan AT5555, poi Hannover, Kenwood, vedi, TH9000, Synchro Impala, mai sentito, per esempio, Top Gun Quad 5, Voyage BR9000, Voyage, non so che lingua sia. E ha avuto un successone questo, perché è stato proprio il passaggio dai classici 3009 a quelli un po' più digitali, cioè con gli SMD, dai, volevo dire, ecco, però bello ricco di funzioni. Vabbè, adesso sono già tanti anni che è uscito questo apparato, caspita. Quanti anni ci avrà? 7-8 anni, lo di più penso, Sì, ma io penso di averlo preso a metà anni 10, no, 2010 sono rientrato, 2010, forse 2015 l'avrò preso, o forse poco prima, siamo lì, dai. Anche 9 anni magari. non mi ricordo la data, c'ho tutto conservato comunque, gli scontrini, la garanzia. È bello che la Intec non esiste più, ha chiuso i battenti. E quindi ci siamo giocati anche la ditta italiana, dai. Ma adesso stanno arrivando dappertutto, vanno dappertutto. Io il 2009 l'ho preso dalla Francia, mi è arrivata a me, l'ho preso lì io, e ci sono anche in Italia, però l'ho pagato di meno in Francia, per cui l'ho preso da lì. E poi Marche ce n'è solo una scialata, per carità, non se la capisce più niente. Adesso, per dire, prendendo un apparecchio nuovo, che apparecchio puoi prendere proprio che piaccia veramente? Ma aspetta, una domanda era, e adesso, oddio, siamo un po' fermi, sempre i modelli sono quelli. Allora, sto vedendo qua che l'Intec, marcato Intec, è uscito nel febbraio 2012 è uscito, poi io magari l'avrò comprato un po' dopo, però, caspita, sono passati tanti anni, più di 10 anni anche. E la coda, cioè 2012, faccio 2024, e bel po' è uscito, un bel po' è. Ma ce ne sono uscite da molto tempo e per cui non sono state messe in circolazione, capito? Dopo magari un paio d'anni le metto in circolazione. E poi che altro? Boh, il 2009 tu sì, l'hai ordinato dalla Francia, magari dal sito ufficiale, dalla CRT proprio, dal sito ufficiale. Io avevo ordinato un altro baracchinetto, normale però, MFM 40 canali, che però aveva delle caratteristiche interessanti, e l'avevo ordinato proprio dalla CRT France, me lo ricordo. Questa sì, è facile, proprio dalla Francia. L'Inter che l'899 l'ho preso qua in Italia, anche quello c'ho, è dentro la scatola, chi l'ha toccato più? Quale? L'899 Vox? Esatto, quello c'ho, sì. È bellino come radio, dai, e esce anche bene. Sì, me lo ricordo, aveva anche l'attacco per cuffia e microfono, per usarlo come il Vox a mani libere. Io ho provato con il presidente in macchina, con la microfonino, però i rumori del vento o delle macchine o delle bestemmie mie quando mi tagliano la strada, alla fine non riuscivi a usarlo col Vox. Invece non c'è nulla a fare, troppi rumori in macchina, anche a vetro chiuso, nulla a fare. Ha ragione, infatti, e tutti i rumori si prenderà, lo porta presso, infatti, e bisogna, in bicicletta, se sei in bicicletta che non passi nessuna macchina e nessun motorino, sei tranquillo, ma se non io poco, il rumore lo senti, infatti l'ho provato e non l'ho toccato più, l'ho rimesso sulla scatola ed è così, anche c'ho anche quel 2000, c'ho anche CRT 2000, quello piccolino, aspetta, anche quello dentro la scatola. Quello con il display colorato, sì. Tu cos'hai, il 2000 normale o il 2000H? 40 canale AMFM, normale, quello è normale. Perché hanno fatto anche il 2000H che aveva più fatte, cioè anziché 4 watt AMFM aveva tipo 12 o 13 watt in AM e 40 SSB, scusa, FM voglio dire, tipo 40 watt FM. No, questo ha 4 watt, questo c'ha, è normale, 4 watt c'ha questo. È bellino anche questo, magari per la macchina va benissimo, il mangolino, non so, non si vede nemmeno, per cui, però la macchina non è metto più io, cioè da parecchi anni, da quando ho cambiato macchina non ho messo più baracchino in macchina io, non mi va più, perché la uso poco io la macchina, così che cosa la metto a fare? E infatti la volta che lo metto non c'è un'anima, io se fossi uscito in macchina stasera, E col baracchino non ci sarebbe stata un'anima, forse avrei trovato te verso quest'ora, tutto lì. Ma prima loro, magari prima c'era più gente, per cui io ci sentivo prima molto spesso in macchina, per cui quando scendevo da qualche posto, per cui ci sentivo sempre. E adesso non lo stai mettendo? Ogni tanto, perché stavo provando anche una base magnetica recente, no, nuova, stavo facendo delle prove tra antenne. Però sai cos'è? Che io non ho un garage adatto alla macchina, quello che ho è piccolo, ci sta una moto, e quindi io ogni volta devo mettere e togliere tutto, devo mettere il baracchino con le viti, capito, agganciare le viti eccetera, insomma devo togliere e mettere ogni volta. Non, se lo lascio in macchina lo rubano, assolutamente, rubano tutto. Poi io lo metto in vista anche, cioè deve essere visibile, attaccato praticamente davanti al passeggero, sotto il cassettino. Ho capito. Anche quello c'è da sapere, perché magari ti danno, che non per il baracchino, per il danno che ti fanno per la macchina, capito? Quello, ma no, io una volta me l'hanno rubato dal camion, quando avevo il camion. Avevo il Zodiac, che niente meno me l'aveva dato quell'apparecchio, del Giorgio, era un poliziotto questo qua, lì il magazzino, nei garage di Viale Sicilia. Certo, ce l'avevo sempre sul camion, la sera mi sono dimenticato di toglierlo e me l'hanno fregato. E dopo un mese il fratello di Mario Bravo Charlie me l'ha trovato a cosa? A tempio, e l'ha riconosciuto perché era tutto segnato, e per cui l'ha riconosciuto e già me l'hanno ritornato, e poi si è bruciato e ce l'ho buttato, ma in macchina non conviene lasciare mai niente, perché è inutile, prima o poi ti sfasciano tutto. Un attimo di bianco. Ok. Antonio? Tanto? Non c'è Antonio, io avrebbe risposto subito. Oh Marco, dai, devo chiedere che hanno bussato, dai, ci sentiamo nel prossimo, grazie per essere entrato e a salutarci. Saluta Liu, ci sentiamo Marco, grazie della chiacchieratina, anche se breve fa piacere, ciao. Ciao Gio Maria, alla prossima, dai, buona serata. Ciao Gio Maria, ciao Marco. Accedi allora, se non sei entrato vuol dire che non ti senti tanto per la quale. Ero vicino a casa tua stamattina a pigliarmi il sangue. Il sangue, in via... Pasubio. Bravissimo, una bomba, scusa. Oia, mi fa male il braccio. Prima ho sentito un fischio, sembrava Antonio, ho detto, Antonio, tu sì, invece niente. Non azzecco una oggi. Credo che mi abbia sentito te prima. Avevano prima di entrare con Gio Maria, ho visto una portante e sentiva la televisione sotto, ho detto, questo è Natalino, invece no. Era Gio Maria. Sono a dormire sempre. Adesso mi tocca andare lunedì a oggi. A Olbia e a fare l'attacco. Ma io non capisco se ci prendano gusto qua, cioè chi è di Sassari lo mandano a Olbia, chi di Olbia lo manda a Sassari, chi di Cagliari lo manda a Sassari, chi di Sassari lo manda a Cagliari, sempre agli antipodi, sembra che sia fatto apposta per farti passare la voglia di fare analisi, di capito? E come vai a Olbia? Mi accompagna quell'amico mio medico e andiamo a farmi fare questo attacco, così almeno quando ho questi attacchi mi ricoverano, mi fanno la colostomia. Sì, una tribolazione, però all'anima io l'avevo fatta risonanza magnetica, era la risonanza magnetica, quella della testa, no, per quella cosa lì, ed era andato a Uzieri, che già non è proprio dietro l'angolo, vabbè, uno dice cosa vuoi che siano, 80 chilometri, nulla mai di più. Infatti già non guidavo io non sono abituato a guidare, io posso andare a Pro Torres, già Alghero mi sembra già lontano, no, perché poi mi viene la sonnolenza, capito, la guida Natalì. e mi vedi un po' con la testa ciondolante, no, meglio di no, il rullio, me lo fa il rullio della macchina, è come una culla, capito? Ti fanno in annana. Sì, soprattutto quando sono un po' stanchetto, no, che si torna da qualche posto, ma se un po' di rullio della macchina mi vedi con la testa ciondoloni, rumiddu. Pensa se stai guidando è più preoccupante. Sì, infatti. Arriverò a Pizzi sicuramente a Olbia. Sono sempre a dolori, un casino. Magari sono davvero le maledizioni di qualcuno, mi. Maledetti siano. Sì, infatti. Ma l'hai fatta la prova dell'occhio? Vabbè, io naturalmente sono contrario, però per curiosità, no. Vabbè, sì, però ne avevamo parlato l'altro giorno. Chi la fa, cioè se vai a farla, loro ti dicono sempre che è positiva, perché se non la fa vuol dire che c'è un dubbio, no? Che fa male, che ne passa di tutti i colori. Allora quelle fattucchiere lì, come si chiamano, la fanno risultare positivo. Che via lo sa fare, la mette la variante. Che poi giocavo sulla fisica, io basta la temperatura di fluidi, riesco a fare tutte quelle bollicine o quelle cose che escono, già hai capito? Per carità, nel 2024 ancora si crede a questa roba. Sono credenze popolari e basta. Aspetta, ho capito più la TV che te. Ripeti. Che sono credenze popolari. Ehi. Però, vabbè, io non... Già lo sai come sono agnostico, com'è quel termine? No, non mi viene. Forse agnostico, no? Che non crede un po' in nulla. Vale. Sei scettico. Scettico? Yes. Chi è? Tonino. Papa. Sei scettico. Avevo capito, stipico. Sì, allora, ciao, comunque, ciao, Natalino. Troia. Anche... No, aspetta, quando era agnostico? Ateo, va bene, quello è una cosa. Ateo è per quanto riguarda la religione, però agnostico era per altri tipi di credenze, però no, non mi voglio sbagliare, devo ogni volta controllare i termini perché ormai la scuola è lontana e non mi ricordo più niente. E quindi, vabbè, Natali, un po' ti devi un po' stringere i denti, poi si risolverà sta storia, da. Sì, Dio ti sente. Io personalmente. Natali, perché questo attacco devi fare? Alla vescica, l'attacco alla vescica devo fare. Soltanto lui, ma anche io. Perché non urini bene. Che troppo. Sono a dolori però, al basso ventre. Salvatore. Ma non c'avrai la prostata, no? Come? Non avrai la prostata. No. Forse è troppo presto. Troia. Capisco anche lei, eh? Sono a Pizzi, sono soltanto 2 anni che secondo me... Sono a Pasquetta, così. No, io sento più la televisione che a te. A te ti voglio mettere un paio di cuffie e il microfono ormai vicino alla bocca, ci sentiamo meglio. Si sente più la televisione che a te. Io sono percepiti proprio rare volte bene. Sì, però la timbrica di Natalino è bella, se non ci fosse la TV naturalmente. È quello che non fa capire bene cosa dice, perché è troppo forte, è vicino la TV. Una volta esistevano, che poi basta usare il mic originale, cioè il mic normale, no? Non amplificato. Io alla fine uso sempre quello, però vabbè, non ho TV in camera, e quindi il problema non si pone. Ti ricordi che esistevano quei famosi microfoni a cancellazione di rumore? Cioè tu dovevi parlare vicino al mic, magari erano anche amplificati, però quando ti allontanavi poco dal mic già non prendevano più nulla. Non me ne ricordo quel microfono. Comunque l'unica è usare quella non preamplificata, una tarina se c'è altre giorni vicino, ovviamente non era più un microfono normale, tanto già si capisce, la tipica già va bene, quella della tarina. Anzi ti dirò che qua con questa apparato è una rogna usare l'amplificato, perché appena metti un amplificato, io ce l'ho qua a 25 cm l'apparato, mi fischia. Questo apparato ha sempre avuto un piccolo rientrino, non è un rientro nemmeno di RF, è fatto così, cioè è come se avesse un po' di monitor appena appena nonostante tu da menù lo disattivi, per cui se usi un amplificato fischia, non c'è niente da fare. Allora io ogni volta con l'MB più 5 fischia, con quello da palmo fischia, o mi devo allontanare tirando il cordone, come diceva padre Francesco, a tirare il cordone, e alla fine mi rompo le palle. Il mic normale, ma mi si sta schiarendo la voce, meno male, il mic normale è sempre il migliore. Vabbè, sì, padre Francesco diceva tira il tuo cordone, ti do la soluzione, stammi da me. Ma padre Francesco sarà vivente? Sì, parlo qui già da poco. Sì, tempi di Paoletta, mamma mia, bei tempi, altro che social. Allora social c'era poco, la 27 era più ricca, era diverso, ma fuori capito, è tutto cambiato. Infatti sono che a corso pure a 20 micro balacchino, mi tengo 23 canale, buonanotte, stato. Non ne vale la pena. Ascolta, anche a te fischiava quando ho avuto questo 5-5-5-5, quanti 5 anni, non me lo ricordo, anche a te quando alzavi l'amplificato fischiava? No, veramente l'amplificato non l'ho mai messo là. Ah vabbè, allora non te lo puoi ricordare, però io per esempio se faccio se soffio sul mic, io nell'altoparlante del baracchino sento appena appena il mio soffio, e quindi se metti l'amplificato fischia che non ne può più, lo senti proprio dall'altoparlante. Non so poi se con i modelli successivi abbiano risolto il problema, perché hanno fatto 3 versioni di questi apparati, no? Cioè di questo stesso apparato, 3 versioni, e non so se abbiano risolto. Invece il 7009 e il 9009, nonostante abbiano la stessa scheda, quasi la stessa scheda, lì non, il problema non si pone, non c'è. Natali, aiuto, ne voglio parlare. Guarda, bene va così. Un bonbon, sì. Sei perfetto, Natali. Sì, col microfono normale, insomma. Ehi, provo a parlare non troppo attaccato. Io sono un po' di lato, cioè, così sarei di fronte a me. Così sono di lato, proprio di lato. Di taglio al mic, lo tengo un po' di lato. E guarda, un po', uno, due, tre. Effetto presenza per me. Ottimo qua. Poi abbiamo sempre la stessa radio, Natalio, ho capito bene? Ehi, la radio, quella che stavo usando poco fa. Ma 5,5 per 5, 25? Sì, quella lì è. Mi la stavo provando con Gio Maria, ce l'avevo ferma da un po', ce l'avevo scarica un po' allo spinotto, perché balla, lo spinotto microfonico balla, anche se si stringi la ghiera, però è proprio, ho spruzzato il CRC, quello che evapora all'istante, è come la mano di Dio te lo fa. Qui questa bella macchina mia anche di notte, che ha il frontale color verde acqua retrovinato, questo è un bicchio di macchina. Stavo cercando, infatti, se no è impossibile modulare. Aspetta, te ripeti che ho parlato assieme. Ho detto, lo stavo cercando questo microfono, perché mi viene male a tenerlo in mano, mi è per quello che non lo usavo. Ma qual è l'originale? Sì, il suo, e allora? Io al momento sto usando il famoso Lafayette DMC507, sempre dinamico, a saponetta, no? Classico, che c'ha la capsula grande grande. L'altro lo devo pulire prima di provarlo. E capo. Via. Certo, se guarisco adesso non so cosa faccio, me ne compro un altro e me lo metto in macchina, di qui. Aspetta che te ne dico una. Fino a pochi giorni fa io stavo provando 2 basi magnetiche, non stavo facendo le prove. Beh, Natali, la base magnetica, la 16, che avevo lasciato da parte, è sparita, è scomparsa in casa. Io non so che maledizione ci sia qua, però la roba scompare nel nulla. L'ho cercata in tutte le stanze e non l'ho trovata, a meno che non me la sia dimenticata in macchina, tipo sotto il sedile o nel cofano, boh. E oppure il maresciallo. Scusa, mi ha buttato pure la base magnetica, e ci mancherebbe. Sì, ti ha buttato via l'accordatore, non ti butta la base magnetica. Poi l'ha buttato tutto quello che trova. Non me ne parlare di quell'MFG, lo sto ancora piangendo. Avevo smetto l'accordatore HF, peraltro costa adesso un caraccio di dinà. Quello lo sto ancora piangendo, eh. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Io la so chi è Marco, deve essere il carabiniere che te l'ha buttato. Sì, già conoscete tutto il maresciallo, sì. Quando viene sono dolori, Mi lascio che mi stavo facendo la doccia. Mi sto asciugando, va. Mi ascolto. Allora sei ignudo? Manda subito la foto su WhatsApp. Mi sto asciugando, va. E sentiamo loro. Ai, Gianni, ignudo, Che termine antico, ignudo. Vai, Tonino, si è spostato? Tonino deve essere caduto in terra dalla sedia e ridendo. Eia, oia, eia, oia, oia, oia, oia. Cavolo. E quindi, va bene. No, sì, comunque ho deciso, mi metto nel cofano un'antenna. Vedi, volevo mettere la base da 16, quella trapiata che userò meno, e l'antenna andante, quella da 1,5 metri, però non quella, così se se la rubano un buon viaggio. È sparita la base magnetica, io non riesco a cavarne i piedi. Io ce l'ho una base magnetica e c'è sopra una cosa, se la vuoi te la do, così me la tolgo da mezzo ai piedi qua. C'è una PLC 800 sopra. No, vabbè, io le uso APL però, perché tutte le antenne che ho sono APL. Per esempio, 3 antenne da baracchino APL, quelle valide, poi ci sono quei giocattoli, tipo se quella che sembra l'antenna del vigile urbano, quella che ha tutto l'avvolgimento, no? Con la bobina a vista, il dischetto metallico e poi lo stilo. E poi ascolta, attacco PL, ciao, sì, tutte le antenne CB, l'antenna HF per ricevere con ricevitore, poi le antenne di banda VU 3, mi pare, sì, 3, quella da 1 metro, quella da 1,5 metri e poi c'è quell'altra intermedia. Quelle performanti, tipo 3x5 ottavi, SG7009 mi pare si chiami. Sì, ne ho di antenne, anche io. Addirittura l'HF l'ho prestata, cosa me ne posso? Prestata, la roba prestata poi torna, o non torna o torna sciabidata. Non bisogna prestare nulla. Sì, già lo so. Già l'ho prestata una persona come si deve. Vabbè, dai. No, perché di solito la prima cosa è ho perso il ponticello, vabbè te lo rifai, sai le cose. Anzi, un bel tempo che non ricevo in HF Natali, c'era il ricevitore che era a bagno nella polvere, allora l'ho pulito bene, piano piano, però non ne ho voglia di ascoltare in HF, però non c'era la passione mi. Altrimenti questa roba o la svendi o la butti o la usi, e allora tanto vuole usarla. E infatti io non sto ascoltando più da nessuna parte, proprio mi è passata tutta la fantasia. Come dici tu, ti hanno disgustato. Sì, disgustato solo mi hanno, sono proprio deluso e disgustato. Vabbè, dai, forse quello le cose, meglio pensare alla salute, appunto, cercare quella e cercare di star bene. Quindi quello è lo scopo, il raggiungimento del benessere, poi il resto può andare al diavolo. E infatti, io ce lo sai che ho visto in via Pasubio. E chi puoi aver visto in via Pasubio? Boh, dammi un indizio. Quello che mi ha fatto il verbale, c'era. Anche lui a fare analisi. Ah, ecco, e beh, qualcuno gliel'avrà mandato anche a lui le maledizioni, capito? Qualcuno a cui ha fatto controlli. Quello ce le avrà più gravi, io non ho fatto verbale a nessuno. Sì, vabbè che era un verbale, cioè, un verbalino simbolico, quant'è? 30 euro? Cioè, è una cosa comunque, una cosa così banale, dai. Ma è in pensione lui? Oppure è ancora attivo? No, è in pensione adesso. Oh, poi succede sempre così. Uno lavora, lavora, lavora. Appena va in pensione arrivano i malanni e quindi non si gode nemmeno l'età pensionabile. E io manco presa l'ho ancora la pensione. che mi tocca dopo agosto, perché li faccio il 29 agosto, gli anni, e quindi mi tocca dopo il 29. Sì, lei lo ha sentito un bene, mi dice, lavorando stavamo bene, dice, ma sono diventato pensionato, arrivano gli acciacchi, malighingi, e dice, altro che fare, curare i propri hobby, no? Farsi viaggi, ma non voglio dire parolacce, sembra fatta apposta. E quelle sono le maledizioni dell'INPS, no? Che pur di non pagarti la pensione ti mandano, ti fanno le fatture, mi, le fatture a morte. E allora, così hanno fatto a babbo che non si è goduto manco della pensione, poverino. Come il Covid l'ha importato l'INPS, l'ha richiesto su ordinazione l'INPS, dice almeno facciamo fuori un po' di pensionati e non paghiamo pensioni. E allora, Medi, mai INPS. Comunque, adesso, vabbè, Covid, al baracchino un dirigente la passa, o noi in famiglia non sappiamo cosa sia il Covid. Eravamo, vabbè, 2, 3, 4 persone, no, in 6 siamo, vabbè, contando quella di Olmedo. E chi ne ha mai visto Covid? Non so nemmeno se esista veramente, non ne abbiamo passato mai, nemmeno visto col binocolo. E i danni che ci abbiamo ce l'avrà fatti, casomai, il vaccino, diciamo. E io invece me l'ho preso nonostante tutti i vaccini. A me sembra strano, però adesso ti dico il perché. Allora, noi siamo, almeno io, mamma, anche zia Paola, siamo refrattari alle influenze, cioè raramente un'influenza ci becca, cioè quando ci viene o non ci fa nulla o al limite un po' di mal di testa, 37,2 di temperature, boh. È probabile che con il Covid sia la stessa cosa, a noi non prende, capito? Ma dopo questo Covid me ne sono, di tutti i colori me ne sono capitati. No, non dopo il Covid, già lo sai dopo cosa, i malighingi, che strano, sono aumentati, no? Dopo la pozione magica. Dopo la pozione magica dell'INPS. Comunque, puntualmente, continuano a morire quindicenni in classe, in cose, così, puff, scesi da nulla, secchi, fulminati, gente proprio palestrata, tutto, gente come mosche stanno morendo. E questi sono gli effetti a medio termine, quelli a lungo termine saranno più infausti, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere, guarda. E che ne so, gente giovane sta morendo, poverini. Sai che il ministero, aspetta, cos'era? Il ministero dell'interno, credo, sì. Insomma, stanno facendo una specie di inchiesta per l'alto tasso di morti improvvise tra forze dell'ordine e forze armate. Questo ho visto anche il documento su internet, se non è fasullo. Praticamente prima, che ne so, moriva per infarto, per cause naturali, un tot numero di gente nelle forze dell'ordine, no? E forze armate. Adesso sono raddoppiati, capito? Prima erano morti naturali, queste altre morti improvvise non sono naturali. E anche lì, persino loro stanno cominciando a voler capire il perché di questa situazione, capito? Ci voleva poco a capire, vabbè. C'è chi l'ha sempre saputo. Scusa, mi sto stiracchiando. Io so solo che me ne stanno succedendo di tutti i colori. Ogni tanto ce n'è una nuova. Vabbè, senti la mollettina. La molla di questo microfono è molto sgnaccherosa. La sento nel monitor, la sento. Sì. Sì, già si sente. Vediamo se è entrato Tonino. Comunque stasera silenzio radio, è molto silenzio radio, vabbè che ero brumiglio, però era acceso qua, ma non credo di aver sentito dall'altra stanza niente. E così da oggi giornata di riposo, ieri abbiamo fatto una bella sfacchinata. Ma devi vedere, vabbè, te lo spiego in privato quello. Andare. aspetta che leggo un messaggio. No, ah ok. No, perché già se mi sta ascoltando. Mi sembra di avere il tono della voce, ma forse perché ho dormito prima, era come di un ottava più basso, mi ero così un po' la voce così. E invece mi si è schiarita la furia di parlare, dai. Sì, la voce normale ti è venuta, là. Prima ce l'avevi cavernicola quando eri addormentato. Ma io non ho una voce normale, la mia voce è brutta. Io se mi sentissi in radio, se sentissi uno che con la mia voce che parla in radio, direi chi è questo coglione? Uia. Io dovrei andare al banco ma a fare dei prelievi, ma no, cosa fai? Con questi dolori non me la sento di guidare. Comunque non devo dire parolacce in radio, anche me l'ho ripromesso perché non è mia, vabbè, non sai chi ce l'ascolto, vabbè, bambini, non si sa mai, dovremmo cercare di parlare il più pulito possibile. No, non c'è andare al banco, ma se te la senti o ci vai domani mattina, se te la senti, ma tu il più vicino che hai, devi pigliare per forza la macchina. E allora chi ce la fa a camminare a piedi? Oh, d'altronde adesso che ci penso, è il più vicino qua, il Longo, bisogna andare al centro, io dovrei scendere almeno in via Roma, dove ci sono le banche, via Roma, Piazza Italia. Ti dirò, non so nemmeno se alle poste lo posso usare il bancomat, cioè se io ho una carta X, di una banca X, posso ritirare il bancomat delle poste con le dovute tasse che ti aggiungono, oppure deve essere un bancomat di banca e non delle poste? Ma non saprei risponderti a questo, quella delle poste nelle banche funziona. Ma non so se quello delle banche funzioni in quello delle poste. Non ho mai provato, non l'ho mai provato. KK, domani, se è bella giornata, vediamo di fare qualsiasi cosa. Uscire un po'. Sì, fai bene. Io già sono un giorno che non esco. Mi ricordo i tempi di quando andavo a pesca, tipo anche di notte andavamo, anzi soprattutto di giorno, a volte non era tanto, pare fosse pure vietato, almeno nella stagione in estate, diciamo, dai. E beh, ci sono i bagnanti, se non meno che non vuoi agganciare qualche caviglia con l'amo, con l'ancoretta, si andava di notte, però poi di notte un'umidità, un freddo, cioè l'umidità mi crepava, capito? E quindi poi mi è passata la passione e pazienza. Guarda, se si potesse mettere una tenda per la notte, e che poi passa un controllo, non puoi mettere manco di quelle mezze tende per la notte che ti vanno a dire che stai campeggiando, che vi porta il diavolo, vi porti. Non si può fare più nulla, no? Anche perché Natalia, io non è che stavo con la canna in mano, come, cioè certi lanciano e stanno sempre in piedi con la canna in mano, aspettando la bocca. Io così mi scocciavo, cioè io lanciavo, magari mettevi il campanello, quello che era, no? L'indisa, il solaglino, vabbè, in punta. Lo mettevo nel piantacanna e mi coricavo sulla spoglia. Certe volte mi assopivo pure, se suona, ho detto, sa bocca, sento suonare bene, se lo pazienza. E infatti, io ho le canne qua di tutti i tipi che se ne stanno ridendo. E le mie pure, i mulinelli invece siamo messi male, è tutto da rifare per i mulinelli. Solo che a parte i mulinelli cinesi, cioè, non voglio nemmeno sapere quanto costa un mulinello, non dico pregiato, ma normale. Io mi ricordo i prezzi di quello di Punti, è abbastanza ebreo come prezzi. Per esempio gli americani già all'epoca ci lamentavamo sempre che costavano, perché costavano ogni anno di più, no? Adesso mi pare, Gianni, mi avrete il prezzo? E mi sono messo la mano in testa, cioè ci compri 2 chili di orate già, quella cifra, faccio prima davvero a comprare il pesce, altro che passione. Sì, vai con 100 euro, lo sai cazzo, roba di esca, quanto ne peschi al mercato? per esempio i canolicchi si prendevano freschi una volta anche al mercato, se c'avevi qualche amico il canolicchio, quindi per l'orata andava bene, no? Credo che sì. E se vai dove c'è sabbia, sì, con quelli peschi, perché loro cercano proprio quelli in mezzo alla sabbia. Ehi, e poi con quei dentoni rompono il guscio e si mangiano il frutto, tra virgolette. E così con le cozze. Che ci vuole la cozza intera. Cioè io certe volte magari toglievo il guscio, infilavo la cozza sull'ama, ce la mangiavano i pesciolini a brandelli, poi la facevano. E invece lì, quello è il bello del guscio, che può boccare solo l'orata lì, capito? Che c'ha quella, c'ha quei denti notevoli. Ora tu sarà duro. Beh, cuocomani. Drogati. È arrivato Gianni. E beh, Gianni, ti sei vestito? Ciao, già. Brucile col cane, dai. Ciao, Luca. Sta conoscendo, sì. A voglia. No, però sto male anch'io, ogni tanto va a farsi benedire. Sono a riposo, dai, rientro lunedì. Ehi, è fortissima la radio, fortissima. Già, stai uscendo col cane, me la dico, già ti sei vestito, sì, non uscire nudo, ignudomi col cane. Non può nudo, anche per freddo. Ma forse non sto uscendo bene. Sta uscendo. È forte la radio anche, pure troppo. È tanto quello, questo. Ma ogni tanto va a farsi benedire, ti ricordi già l'altra volta non usciva. Ma adesso va uscendo un po', dai. Io rientro lunedì a Baia Sardinia. È tosta, lavorare lì, ce l'hai lavorare tu, per l'alloggio, no? Tutto un insieme di cose. Le calcoli non mi piacciono. Ma stagione dovevi fare? Stavo facendo, no, dovevo fare, ci sono 15 giorni. Vabbè, un po' impegnativo lì. Però lui, la radio è stranamente quasi troppo forte, anche anormale, come troppo. Non lo so, Nathalie, cosa dici? Sì, non è la radio sua, la sua solita, va. Come Nathalie non c'è? Io l'ho abbassata a 2, Marco, boh, aspetta. No, un po', l'ho abbassato un altro po', ora si va meglio. Eccellente. Perché era 5. 3.900 in parcheggio adesso. Adesso ho detto, l'accendo un po', vediamo un po' se funziona. Già sta andando, allora. Adesso già sì. E quindi cos'hai trovato, Luca? Gente ruffiana, tipo. Sì, sì. Gente che segnala, io sto facendo pulizia, capito? Magni. Abbiamo un ristorante, quando ci sono questi arabi, 150 arabi maledetti, fanno un casino. Tu conta che io entro alle 23 e adesso alle 7:30 del mattino. Vedo pulire tutto il ristorante, vedo pulire i bagni, vedo pulire quello che c'è da pulire. Ed è tosta, Infatti tu conta, ieri ho fatto 23, 7, 7, alle 23 alle 7, senza pausa, per la mezz'ora, no? E mi sono stato diritto. Posso a pranzo, posso a cena, quello che è. Praticamente cosa è successo? Che ho fatto smontando e portando a Sassari. Mi stavo anche addormentando rientrando. Guidando, lo fa anche a me, lo sai. Io mi ricordo che quando lavoravo a Ruscello lì, nelle retrovie, entravo alle 10 e uscivo alle 7 di mattina, in quella camusa c'era un caldo terrificante, uscivo distrutto, beh, mi veniva il sonno tornando dal Ghero e una volta mi sono trovato contromano nella corsia opposta.